mia zona, al Sacro Cuore, d'estate si usava a scendere tutti nelle panchine, ci portavano la bottiglia d'acqua fresca con l'acqua, ci facevano la chiacchierata fuori nelle panchine, perché in casa non si poteva stare, era una fornace, con le finestre tutte abite. Io non ho mai conosciuto serrande abbassate a casa e con, perché mamma non ne abbassava mai, a chi era sempre un calore da gribà, e lasciava tutte le finestre in corrente e noi scendevamo giù, quando saliva un po' rinfrescava. Ma ti dirò che i muri intrachitti non fanno passare umidità, quello è vero, però quando scaldano, che fanno da accumulatori di calore, fa come quella barzelletta che ho visto su Facebook, che ci sono due vichi, e gli fa: compa, quanto caldo che c'ho. Dice: goditelo adesso, perché poi devi pagare per scaldarti d'inverno. Mamma mia, la mamma lo stesso, mamma era via e così a portarsi, anche a casa di mamma si stava bene quando c'era un po' di arietta, lì di fronte al mare, diversamente accanto era da morire, capito? C'era da morire. Ma tu hai capito dove abitavo io? Di fronte alla scuola media, la numero 6, a Sacro Cuore, nel portone che fa angolo, come giri l'angolo, il primo portone era dove abitavo io. Io c'avevo le scuole a due passi, le elementari, le medie, se volevo anche le superiori, ma io mi sono iscritto all'agraria, quindi dovevo fare un po' di strada, però se volevo c'avevo anche le superiori, lo scientifico c'avevo. Ho capito che sì, praticamente dove c'è adesso il barbiere là di fronte. Barbiere? No. Praticamente no, devi andare più avanti, devi girare per via Pavese. Via Pavese, lo sai qual è? Non dove c'è l'Abis. Esatto. Praticamente per i palazzi prima di arrivare all'Avis, quei palazzi che ci sono, come tu giri l'angolo per andare verso l'Avis, quel primo portone dove abita lui all'ultimo piano. Sì, non abitava anche Andrea Moretta, la mamma abitava lì. No, via Giotto Andrea abitava. La mamma abitava via Giotto. Andrea via Giotto, sì, che fa, dove c'è quella piazzetta, no? Scappa. Sì. Quello due modulate con Andrea di notte ci facevamo quando era CB. Non lo so, adesso che c'è lui della CB, lui che era numero uno, adesso lui della CB, è passato di grado. Non la odia, perché detto che se lui riprende a modulare 27 non va più nelle frequenze radioamatoriali, che gli piace di più. Accidenti, io qua mi ero qui da sé, c'avevo le V e stavo parlando con Walter e con Antonio, lo ricordo Antonio di motore. Poi ero in uno e stavo parlando con un altro, poi ero in entrata laterale, sempre in 2 metri, in VHF, e stavo parlando con un altro. E questa è sempre accesa, un colpo qui, un colpo là, hanno fatto di tutto. Lui non è così, già lascia perdere. Ho avuto un grande scontro io l'anno scorso con Andrea, proprio per questo fatto. Dopodiché sono arrivato alla decisione di cancellarmi del tutto dalla sezione, perché mi avevo preoccupato. Perché ogni momento, discussioni, sedino, ti fai sentire là, siamo qui, vieni là, ma giratemi coglioni, io faccio fare una cazzo come pare mi piace. Non voglio essere controllato da nessuno, non me la putti non dà. Beh, stasera sono andato a fare un giro con Marcolino e sono andato alla curva e ho detto: ce andiamo a farci un giro a moto che c'è un bel caldo. Abbiamo messo la macchina, siamo saliti a casa, si è rinfrescato un po' e poi siamo usciti. E siccome l'altro giorno abbiamo avuto una discussione con mia moglie perché voleva passare da Sorso per andare lì a Belo Horizonte, no, voleva passare dalla strada di Sorso, ho detto: passo dalla Budimundi, faccio i pettini e via. E mi ha detto: no, fai prima da qua, tutto buio in Chivi. E gli ho detto a Marco, come esci, ti faccio vedere come la strada che voleva farti fare tua madre. Siamo scesi da lì per andare verso il Soso, stavo andando a San Camillo, una fila di macchine, non finiva più, ho preso, sono passato tutto, lo sai che moto si fa in fretta. E c'era un ragazzo in terra con la moto, con la marmitta staccata dalla moto, manubrio da una parte, marmitta dall'altra, pezzi di plastica dall'altra, e lo stavano caricando in ambulanza. E dove? Che dove? Per salire a San Camillo, là. Per andare verso San Camillo, come si chiama? Lugulento, no, come si chiama quella lì? Adesso non mi ricordo. Sì, c'è lì, ma di Manetta, quella zona che gira tutto la prima, in primo incrocio, per arrivare a San Camillo, infatti, che poi va sulla, dove abita Andrea, quella fuori lì. Ebbene, ma non c'è stato niente. Ah, c'è l'idea di Bari Manetta. Ah, praticamente, tu arrivi, fai tutto il chilometro, dove c'è che gira per la Budimudi, scendi per andare verso Sorso, quella, fai quella strada lì e poi vai verso San Camillo. E il Logulento quello è? E il Logulento, praticamente fate tutte le curve della salita che c'è per andare verso San Camillo lì. Ha avuto un incidente questo ragazzo, doveva essere anche giovane. Poi avevo capito con la rotonda, al chilometro, giri a destra, che poi praticamente pulisce anche lui sotto casa tua. Quella zona puoi pensare a quella di Manetta. E infatti tu cosa avete a Bari Manetta, no? E praticamente è proprio la strada che va a Sorso, no? Dove ci sono le curve e poi c'è la salita di San Camillo, ce la presenta. Sì, nella salita di San Camillo. Stavano ancora caricando, poi si è fermato, c'era un motociclista a ferro, mi sono affiancato, ho detto, perché c'erano i carabinieri, mi ha detto si accusti. Va bene. Sta facendo scendere le macchine. Gli ho detto, ma si è fatto male seriamente, ma ho detto guarda, era in piedi, infatti è incredibile, io ho visto la moto tutta pizzarelli, un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, c'è la marmita dentro la, nella cunetta, pezzi di scocca, di tutto, di tutti i pezzi di moto, tutti sparpagliati, dopo secondo me si è sbattuto molto più in là di dove l'hanno raccolto. Perché? Perché quando sono risalito poi c'erano tutti i pezzi della moto anche molto più su. Minchia, ragazzi, già. Adesso purtroppo il periodo gonfio, l'estate per le moto, per le cose di aria con le ragazze, sono anche al loro ieri in moto e c'ha il Di Maxi Mario. Non si deve fare anche lui c'è Marmittone. Ma poveri voci, aiutami, andate piano con la moto perché non sono d'accordo io. E poi mi sono anche messo pentito perché io ho più spericolato loro. Però temo sempre, cazzo, temo perché è un casino. E ho questo motociclista, lo stavamo dicendo, la moto va presa a modo di passeggiata, non bisogna correre con la moto perché basta un piccolo ostacolo, ti sbatti e quando carica la moto diventa sempre male. Perfetto, non ho come perdona, mi ha sparato il culo, poi si è corso il corpo per prendi, mi ricordo, a Giuseppe Pina, l'avevo visto stamattina alle alle 9, alle 10:30 è morto, quindi la non ci hanno fatto affermare l'emorragia che c'è in muro. Ma sono stati pronti probabilmente, bastava mettere una cinghia alla base della ferita e stringerla, poi mollarla, prima di mollarla ogni 5 minuti bisogna staccarla, fare uscire un po' di sangue e poi rimetterla, se no gli viene la cancrena. Già, lì il panico, le porchette io ad altri. Ero rimasto fermato, tutto l'aveva aperto il coso sotto con la cuscia, mi aveva già preso la pena principale, che dice che era un fiume. Non è morto, non è arrivata l'ambulanza, l'hanno caricato, ma era già morto. Quindi per me ci dobbiamo stare molto attenti. Perché fino a quando fai lo scemo e ti ammazzi, io sì, mi dispiace, però dico proprio per te. Siamo ad ammazzarti, capito? Ma quando qualcuno così non ti aveva precedenza, una vista brutta anche qua vicino a casa, salendo via Milano, uscivano da San Sempiccio, non c'era lo spazio di traffico in mezzo, quindi non potevi attraversare, prima si poteva attraversare. E molte volte a passare io, comunque a passare la macchina, anche tu proprio a pelo. Se lì ti viene distinto quel pezzettino, non c'erano rotonde, non c'era niente, a dargli appena appena di gas, e arriviamo in croce che si accende l'ora, sei morto. Ma che K, è così, è così, è così. Bisogna dargli del lì alla volta, c'è poco da fare. Comunque lì ha brutto sicuramente l'arteria femorale, lacerata, e ha perso sangue per quello. Siamo in Europa, ci devo vedere una fontana, vediamo se c'è qualcuno vuole entrare. Ascoltando il suo cuore, tutta fucile, già che non ci ho preso nulla, cosa hai detto? Ha detto che sto ascoltando, buonasera a tutti, e a far culo perché c'è un microfono vicino, va. Ciao Salvi, te mamma con riconosciuto Ventura. Rapà, perché sono seduto a letto e c'ho la microfonia più bassa della parigia e quindi in destra. Ciao Tony, sono qua in ascolto, le sono un amico, stiamo facendo delle prove nel PC e ci sono casini, gatto. Li ascoltiamo, ripieni Gianni. Ehi. Anda, beh, Salvi, continua col tuo PC, sta riformattato. Non è negativo, non era riformattare, era male a ricoverare. E il PC dopo 5 anni ce lo devi buttare e prenderlo nuovo, è buco di fare. No, è nuovo, questo qui non è questione di riformattare, è un po' sul PC, c'ha degli altri problemi tecnici, niente di tutto di risolvibile, non ci sono problemi, basta caricarlo di 100 euro e viaggia per simili. Dai, ok, riprendete, siamo qua all'ascolto, a dopo. Andare avanti. Ehi, hey, c'è lì, devi uscire. Mi sei piccino a bere, ma intanto bisogna darle un po' di nutrolino per far sì che non si brucchi, se no un bel casino, vabbè. Allora già lo vivo. Facciamo a Cimiliano ancora gli uccelli, Mi non ti si succede di guarda, mi non ti sa di obbita. E sai che non entra più? Perché sta succhiando. Succiando. Cos'è che non hai ancora mangiato le macchine? Ho fatto una bella mangiata di macconi, di macchie, di questi, nel periodo insomma che c'erano, però le mattine niente, non ho ancora assaggiato, perché poi non vedo. Vabbè, sono buono, se sono grosso già sono buono, ma io già le ho mangiate, col sughetto piccante. Mattina che ci vedo piccante. Eia. A me piacciono aglio olio, quindi normali, capito? c'è gente che qua sa se che lo facciamo col patatino, col patate bollite, gelate, caffè. Sì, pure, pure. Ma anche le rubate grosse. Ma io non le faccio mai, si faccio il guscio là. Ah, no, no. Mangi macchine, basta, cioè. Anche non lo facevo. Allora, togliamo la patata e mettevo a parte, voglio che non vai. Ah, dovevo io. Ma è con mite, sale. E se c'è anche un pezzettino di peperoncino. E beh, questo numero che cos'è? Cosa c'è? Il numero che mi dovevi dare. Il numero? Grazie, già fammi il numero, sto aumentando il colomito. Ehi, via, dopo un caso quando mi stava dormendo. Ma dai, io, dai, te le prendi già, dimmi che numero ti ha provato, dove lo dico già i miei. Ah, boh. Che ne so. Ma è già, sì, che numero ti devo dare? Ma non dire numero di lei. Vabbè già, ma tu ormai sei da capire, perché ormai io ho già capito, un lavoro che fai, la tanchezza, e poi lunedì mattina è triste per te riordinare tutto e mettere in sesto il meccanismo. Sali, scendi, a pranzo, a cena, mamma mia, un casino. E quindi già, oh, ogni tanto ti fai queste sognatine, che... Sono da molto che non lo facevo. No, ma oggi è stata proprio una giornata pesantissima stamattina, perché c'era un bel di roba da fare. Ma non poca roba. Da quando sono arrivato, subito marciando sono stato, sino a quando me ne sono andato via, sempre in marcia. La cena stava un regalo con gelati nella camionale, nella sala di Alghero. C'erano i vigili del fuoco levando i pacchi dei gelati da un camion frigo della Algida, capovolto, messo di fianco. Regalava i gelati? Siamo saliti lì dalla sala di Alghero e stavamo lanciando pacchi di gelati ai vigili del fuoco. Perché per alleggerirlo sicuramente. No, fanno rovinarsi tutto, c'era un altro camion davanti, facevano passamare e caricavano un altro camion, dopo lo stavo vedendo. Spero che non sia fatto male l'autista, però il camion era di fianco e i vigili del fuoco, ce n'era uno dentro la cella che passava quello di fuori, l'altro passava all'altro, e alla fine li prendeva in mano l'autista dell'altro camion e caricavano l'altro camion. Dell'Agile, detto, sulla camionata. E il tipo com'era? Non l'hai visto? Io ho visto l'incidente a morte questa stasera nella strada di Sorso. No, la notizia non c'era già più. Il camion era un po' ridotto male, era ribaltato di fianco, sicuramente lo stava leggendo a bolle, lo stava guardando il cellulare, parlando al cellulare, ci è distratto, è andato col muso, fianco sinistro del muso, a sbattere contro in New Jersey, il pilone ci aveva armato e si è ribaltato, si è messo di fianco, però era, il camion era un po' messo male, mancava il parabrezza, il muso era distrutto. Ed era coricato nel fianco destro. E infatti i vigili del fuoco stavano levando dal lato sinistro, si sono messi sopra e stavano levando pacchisi all'altra tutta le mani. Vabbè, invece fa di sciogliere, non potevano regalare a chi passava. Infatti noi eravamo dietro, dovevano andare, tanto c'era la strada, io sto ancora, abbiamo aperto il finestrino, ma pacchisi altri non sono arrivati, allora abbiamo tirato dritti. Poi c'è la strada di Sorso, c'è un incidente in moto, abbastanza brutto perché c'era la marmita da una parte, tutte le carrelle dall'altra, molto più su di dove hanno preso il tipo, c'erano pezzi di carena, di coso, cazzo, un casino. Si è fatto male? Ma io ho chiesto a un motociclista che c'era fermo e mi ha detto che all'inizio era in piedi e poi si è farato, capito? E l'hanno caricato sulla barella, l'hanno messo il ragno, ok, tutto quanto, i collali, eccetera, eccetera. Così ti va, chiamo tavola, la moto alla strada. Ah no, era tipo una Aprilia Futura di quelle che sembravano delle zanzare quando cambia. Cos'è? Più o meno, quelle moto lì. Quelle moto di replica, là, di quelle replica di moto da strada, insomma. Positivo, là. Milioni di moto, là. Capo. Perlomeno da quello che ho potuto vedere mi sembra una di quelle, perché ti fece da Dio vera di pesci, una macchina là. È positivo. Andare, dai, io sto sperando che non sia Sandro, un amicurino che c'ha il camion dell'Agida. Non so, c'è un altro davanti parcheggiato, la strada dietro, i vigili del fuoco, e stavano facendo questo passamano di scatole di gelati, in modo di non perdere almeno la merce, dai, perché il camion è mezzo affondato, e non penso che si possa recuperare, era un bel po' messo male. Sandro che è quello che c'ha, che è alto, solitamente fa 4 torri. E mezza altezza, la prima consigliava, lavorava per Satimur già prima, non mi dire il cognome perché non me lo ricordo, Sandro, lavora per Algida, c'ha un po' di cicatrici in faccia, non è né basso né alto, da una mezza altezza, sarà un'estata 5. Quindi quello che dico io allora, non è a cicatrici questo, si porta anche il figlioccio appresso che è piccolino. Vabbè, c'è la cugina mia, perché sono le Simo, te c'è. Non so se si chiama Simo di cognome, ci conosciamo tanti anni, ci conoscevamo anche nella linea quando lavoravo con la ditta di trasporti. Non penso si chiami Simo di cognome, Sandro. Qua ci avrà un 40 anni, da una quarantina d'anni, c'è un po' di segni in faccia, tipo cicatrici, c'è l'altro un 75, Sandro, però il cognome guarda, non me lo chiedere perché non me lo ricordo, spero che non sia lui, ragazzi, perché è un amico, cioè beviamo spesso anche assieme, così lo conosco tanti anni, però il cognome non me lo ricordo. In via vicino a Michele abita in via Barletta, che si chiama la via Bardini, ma si vede Alessandro Scimola, il cugino di primo grado, il figlio del fratello di mia socia, lavoravano a Sant'Emuccio prima, ma non fu un mese, già è lui, un bel agile, già lo muove lui in camion. Positivo, quello sono sicuro che c'ha, lui lavora adesso con l'Agida, capito? Però cioè, non c'era nessuno nel tuo abitacolo, quindi non so se i mezzi sono tutti uguali, quei mezzi lì, capito? Sono tutti precisi, quindi mi auguro non sia lui, da. Comunque sì, anche che sia qualcun altro, spero non sia fatto male, più che altro. Perché è sempre così brutto, si mette una distrazione, andata a finire sopra il coso, sopra il cosiddetto armato, e di lì si è ribaltato, si è messo di fianco. Però davanti non c'era né parabrezza, il muso era tutto distrutto, e nulla. Sì, io che tu conosciamo, c'è un armato, sai. Come? Ho detto, sia io che lui sappiamo che cos'è il cemento armato, ma cotto e duro. Io già lo so del cemento armato, ho avuto uno scontro diretto, è stato bello, non è stato bello per niente. Dai, vi ascolto, stiamo qua completando un po', ci stiamo pensando se buttarlo dalla finestra o buttarlo dentro la mondezza, fra basta un po', riprendete. E io no, io sono un vecchio di moto intanto a quel cordolo che c'è sulla Budi Budi, non lo so, un ematto ma grande con tutto il corpo, ci ha detto. Comunque se nella zona del Ghero sono a fare quella zona, sono a Sassari e la costa, capito? Io non penso sia lui, comunque adesso sta telefonando mia moglie allo zio, aspetta un attimo, ok? Tutti uguali quel camion, no? Claudio, non si può dire, lui ha ipotizzato che fosse quello, ma non è che sia, che l'abbia visto o che cosa, non c'era nessuno, quindi non può dire niente. Perché sembra c'è quel camion. sono allora, dai. Le cose corrispondono, già quello che sto dicendo io, ma ti ripeto, sono tutti precisi quei mezzi, io conosco a lui che lavora di lì, spero che non sia lui, e comunque sia, anche se qualcun altro che non siano fatti male, vado poco ma sicuro. Magari proprio che sta facendo un colpo di malaghiero perché c'è più afflusso di lavoro, io il suo numero non ce l'avevo prima del numero di santo, non ce l'ho più, se non l'avrei chiamato subito come sono passato lì davanti. Mi chiama per adesso, non c'è nessuno, non so, sono 10 e un quarto, sono bravo, mangiare, sì, il mio cugino acquisito, il cugino primo della mia moglie. Mio zio Pippo, padre da camionista, mi ha detto un via Bardini, capito? Non pensando a vita di Bardini, anzi, adesso non abita più via Bardini perché ci ha fatto la casa a San Camillo. Dove? Via? Vabbè, quello lì. Abita via Bardini, c'è la finestra via Bardini. Vabbè, si è entrata a via Bardini, non si andava a abita più lì perché ci ha fatto la casa a San Camillo. Lo so, e vabbè lì non si sa di chi era colpa, boh, c'era il figlio vicino, cercheranno d'urgenza. D'urgenza? Io mi ricordo che la sirena ce l'aveva, la pesante ce l'aveva, il figlio vicino non si è accorto che lo stavano praticamente svoltando. E allora? Stava scendendo la via Calafrici. E mi dice che poco non sono successo, stava facendo la via Calafrici. Allora quella via di merda, che hanno fatto buon incidente di chi? E mi dice che poco stavano salendo la via Calafrici per svoltare la via Calafrici. E mi ha preso l'angolo della tua botte. Sono cose. Non so se ti ricordi quello di Viettore Sacchi che aveva preso con la coda dell'ultima ruota quei due ragazzi in bicicletta in Grazietta. Non lo ricordo, sì. Ecco, ma non lo ricordo. Neanche Viettore Sacchi, che ha dato la principio di Piemonte. Non lo via né mai rapporto, tiravano i dritti, cioè, Viettore Sacchi, cioè via principio di Piemonte per Viettore Sacchi, via Balai per Viettore Sacchi. Tutti quelli incrociano pericolosi. Il più pericoloso è quello di via delle Vigne che incrocia con Vettore Sacchi. Quello lì è uno degli incroci più pericolosi che io abbia mai visto. Lì è successo l'incidente anche di quei ragazzini che però uno era in piedi sul portabagagli della Graziella e l'altro guidava. Hanno attraversato dove c'erano le strisce pedonali, però stava arrivando questo autotreno, come li ha visti attraversando, ha frenato, si è girato il rivolto dietro, con la ruota ha pigliato quei due ragazzi, si era magnato, erano inghiottiti praticamente. Non mi ricordo. Vabbè, purtroppo è così, bisogna stare molto attenti, infatti la lì hanno tolto il biglietto per il camion, cioè ci hanno fatto dopo tanti incidenti, tante cose, e lui è morto anche il figlio di Cau, cioè il padre di Cau, veramente quello che era operato alla guerra al grande, che era Bisalori, quello aveva vestito di Pietro Mangattia. Mangattia quello del bar. Allora, quello mio zio. E vabbè. E Antonello Bavaraccio. Cazzo, mi piacete, ci. E fine il piatto l'ho fatto. Ma fine brutta però. Ci non meritava, poveraccio. Guarda, non era giusto, però si alzava presto, andava a scaricare il pesce, se lo prendeva, non rompeva la scatola a nessuno. Infatti, lui è imbecille, non abbiamo preso, pare che l'abbia buttato in pieno, l'abbia fatta apposta, che secondo me è una via così larga, non vedo uno che sta andando in bicicletta, non mi credo, non ci credo io. Era conto che tipo? E cazzo già, conto quanto vuoi, ma mica che la linea è larga, mi già, e madonna l'ha fatto di giorno, tua, è larghissima, cioè c'è una autostrada. Quando mai quello camminando la giro vicino al marciapiede e cazzo tu non lo vedi? Allora la macchina io l'ho visto l'incidente, praticamente subito dopo la mattina è arrivata una delle polizie e si è messa a dire oh sapete che è una macchina ammazzata con Antonello, cosa si stava piangendo. E poi sono uscito io col furgone, in via delle Vigne ho visto la macchina che c'era praticamente, aveva saltato la divisione che c'è tra due corsie e le altre due corsie. L'ha saltata e si è messa sopra, oltre a averlo investito. Tu immaginati quanto stava camminando. Niente, non lo so, esattamente come era successo, non lo so. Ma me l'ha fatto mio fratello, ma l'ha telefonato, ci avevano investito. Alla pizzeria che c'è la Rosa del Vino. Ah, quello lì è il cuoco, lo c'è? Non so se ci sia ancora, io non ci vado mai con la pizzeria, sono andato una volta, troppa gente, un casino. No, era lì, lavorava lì, però non so se... Non è nemmeno di Porto Torres, lui. No, di Furia. No, no, già, io ce la facciamo, sì, ci speriamo sia la dottora Cucci. Grazie. Grazie, la grazia costruzione, grazie, c'è l'altra porzione. Vabbè, ah beh, perché mi vengo pure quando sono passati a poter chiamare a quello. Ti giuro, no, perché mi sono rimasti qua. E la bettina ci mette a provveduto. A provveduto. No, no, no, ci andiamo. Adesso aspettiamo che Giuseppe lì. Lui si è stato male troppo ferragosto, tranquillo, è tutto finito da ieri. È la ora. Meno me, calci di buco. Oh, molto scega. Noi vediamo sempre molto pompa, devo cambiare qualche volta. A voglia. C'è un attacco uguale, non cambia niente. Lui sei sempre il carissimo Pomponio. Grazie. Vabbè. Portiamo anche a me lo a mangiare i caroni, ragazzi, mi mangia tutti, grazie che buono che sono. Sì, mi piace mica la macchina questa, è una cosa più buona che mangio. Mi piace soltanto che qualche volta che vado qualcosa, lo distingo con un pacco intero, non lo mangio. Anche a me si assaggi quello del bullying, a me me la fai poggiando, è peccato, non ci credo, siamo più buoni che di quelli di prodotto, invece, ma è provare, sono andato nella realtà. Sono andato nella realtà veramente gustosi e buoni. Oggi a tua moglie hai fatto i moscardini, quelli piccolini, impanati e fritti, ce ne sono più buoni che calamari. No, i moscardini sempre fatti alla diavola. Sì, anche io, però mi hanno detto ce ne sono, siccome sono talmente piccoli e timidi, una lavata, impanati e fritti, e in parella, olio bollente, quasi lì. Bello, se ne dice che sono calamari, più buoni i calamari. No, mai mangiati, così, la verità. Non posso dirti una cosa per un'altra perché non li ho mai mangiati. Però li ho sempre fatti alla diavola, con sughetto piccante. Siamo chiusi, non lo devo. Quella è la sua morte, però questi polpettini adesso loro si ritrovo. Provo a farli così, quanti fitti, mi c'è la fine del mondo. Magari, tutto bene? Tutto bene, sto bene a voi. Ma senza lavorare, uno stipendio, facciamo la cena qua a casa. A voi aspetta qua, puoi fare ciò che vuoi, bistecchi, quello che ti fa di pezzi sardine, tutto a posto. Quanto è? Per non fare lì a... Ma c'è appena legge e scrivete, se vuoi dire, noi andiamo a Bulli, fare 20 euro a testa, anche di meno, e si mangia da Dio, veramente da Dio, perché non ci siamo andati, e si mangia veramente bene, roba buona, e a uffa. Poi, comunque, te sto dicendo, se la fai qui con 20 euro per ciascuno, anche in quanto fai la roba che c'esce. Stai anche qui senza essere tre o quattro giorni, te lo dico io. Ragazzi, la verdura, carne, pesce, roba del genere, lo facciamo noi, siamo più tranquilli. Solo come allo stile di qui perché c'ho un terrazzino, nessuno mi ha per le balle, quindi. Quando non ti lavorato tu dici, tu lo stipendio, non ti dico mi. A fare una bella cena, non fai un tutto niente a me. Birra, quello che c'è, il vino, che c'è tutti i basi di piatti. Quello che volete cuciniamo e siamo a posto. C'è il corpo del cubo dell'altro. Quello grande e si cucina, quello che ti fa ti piace. Io andiamo a Battiarino lì, a questa cucinare a fronte, che guardo, non so tanto mia Giuseppe, una sera che ha riposo Giuseppe. Andiamo al bullying. Capo di ciò mezzo, adesso me devo prendere la pastiglia, già le prendi. Capo. Comunque quei calamari lì sono favolosi, lo so perché lo so io, perché Agostino, questo amico mio, me li fornisce lui e prende i calamari di prima, capito? Sì, perché sono buoni i calamari, piacciono anche a me. Il problema è che cioè, aspetta, 30 euro a buoni, la verità non ho. Con 30 euro qua, a prezzo insomma, poi la roba che c'è. E poi cosa mi sbagliato, dico io. Allora, veniamo, tu qua c'è il pesce, proprio se fatto una proposta la mattina a posto, sì, per dire, andiamo al pescaricio e ti pigli quello che vuoi. Poi ce lo cuciniamo qua a casa, cosa cambia? È la stessa cosa, non è che cambia molto, costa nulla. Se vogliamo proprio fare una bella cena, c'è roba a poco prezzo. Carne pesce, al limite, boh, si può piene un po' il cielo, l'agnello, quello che è, si cucina, non è che cosa mi la fotti. Ma andare al ristorante è proprio, si fa così, mamma mia. Quindi lo fanno a casa, tranquillo, ci si diverte, facciamo quello che vuoi, io posso cucinare fuori, no? Come gli altri, io ho il terrazzino di aver visto. E cucino fuori, tranquillo, nessuno mi dice niente. Ciao. No, io ci sono, Rick, scusami che sto raccogliendo roba. Ah, ok. Poi per me è come più fanno qua, la verità, poi non lo so. Qui noi ci ribattiamo a casa. Si cucina fuori, sembra che alla fine posso cucinare quello che voglio, ci metto un bel cuore, fa quello che vuole. Con quattro persone fai 20 euro per ciascuno, ma sono per la baccesce. Sì, altro che andare al ristorante, sì, tranquillo, non è che deve fare 2 metri del treno, sì, anche le 6, le 7, quello che è, no, non c'è problema. Io non faccio come ha fatto un altro che è venuto a casa, ha preso, ha mangiato, dopo mezzo l'ha mangiato, mi fa morto perché c'ho la... Lascio buttare, mi sento male, e vado a casa, hai capito? E io ci ho lasciato molti coglioni qua a casa mia. Eccomi qua, la battiglia me l'ho presa, la battiglia. Sono contento, caro. Gianni, c'è un amico a Tavessi, Gianni me, loro per tutti. Avanti. Che parla? Sì, no, già sono sveglio. Non sono più tante, ma già sono sveglio un po'. Non ce ne ha così strani, eh? No. Non è sogno cose strane, solo dopo pranzo. Quando ti stai calamagliando, dimmi qua, caput, e io capisco. Caput. Avessi. Dimmi. E me la birretta ha fatta dire. Una mezz'ora dopo l'aveva fatta, sono dovuto scendere giù a pigliare il cane e a portarla a passeggio perché stava schiattando a casa di mamma, capito? E si trovava anche la porta, bagnavano tra la sera, tra la mamma. E quindi sono sceso con il suono, non avevo fatto un paio di giorni e quindi sono andato e ho portato a pisciare. Oppure parlo con Gianni. Sì? Non mi ricordo. Sì. Dico le cose, eh? Come? Ah, ce lo riposare, cazzo. Ma sai quando parlo con il sindaco, la verità, quando ti ricordate dal sindaco, buongiorno, mi servirebbe un, guarda, io faccio questo lavoro, e ti guarda così, come per dire, boh. Poi senti, un attimo c'è il telefono, e ti manda a fanculo. Il sindaco. Fa così fanno. No, ma Gianni, già lo sai. Se non accettava di commette, poi inizia un po' a tentennare, allora. Fa così. Non è niente. È stanco, stanco, stanco. Già ti ho capito io. Hai portato un piano, invece non ho capito niente. Dopo la pisciare e muoi. Mi stava sellando e poi si è tranquillizzato. Vabbè, col cane, il cane sono così. Non so, c'è una figlia che mi sta sellando, devo trovare un topo d'Austria. Guarda, se vuoi scoprire lo regalo, subito. No, devo dare questo topo d'Austria, lo sai cos'è? No, sono un topo di fuori, non lo so io. Col cane, si chiama topo d'Austria. È praticamente piccolino, più piccolo di Chihuahua, e c'è mattina c'è quella scuba, dimmi. È tranquillo come il cane. È molto dolce. Antonè, è 30 centimetri di cane, mica, piccolino, piccolino, tipo chihuahua ancora più piccolo, capito? Piccolo, piccolo, ma classificate 30 la borsetta, e per quello lo chiamano troppo l'Austria, lo chiamano il buio. Ah, e allora, uiaia. Quindi tu mi metti sotto la radio, se non va dentro qualche radio, cazzo, c'è la radio si brucia. Come minimo, sì. Non è comunque di te quello che volete, io sono molto avanti dei cani, di tutti gli animali in generale, mi piacciono tantissimo. Però l'animale che mi piace più a casa è il gatto. Io ce l'avevo, poi mia figlia era piccola e allergica, quindi l'ho voluto dare. L'ho dato a un mio parente, ce l'ha ancora. È vecchia, è una bella gatta, una gatta persiana, bellissima. Tutto pelo, cazzo, tipo quello che c'è già, molto bello, l'ho voluto dare. Però a me piace sempre il gatto a casa, perché è indipendente, non ti rompe le palle, è molto affettuoso, e il gatto sta bene a casa. Capito, è pulito, non devi stare porta qui, porta là. Per me è migliore quello, poi alla casa del cane diventa uguale, non è rotto di balle, sali, scendi, porta qui d'inverno, sta piovendo, che cosa vuoi fare? No, scusi, che non mette altro. E poi è anche effettente la verità, perché sento io nel letto, siamo un po' manco entrare, figurati tu. Dice come tu di entrare e dice, sì, qui per me. Non fa entrare, manco la volta. Se mi atto io, sì, ma se io mi atto al letto, non è che mi a letto. Tu vuoi amico di Giuseppe? Quello di è. E se non buvi lì? Ah, povero bene guai. Che te lo faccio fare voi questi giorni a Scupi? Troppo bella, guarda. E c'ha un musetto troppo simpatico. Che capisce la persona al volo, capito? Quando lo guardo, dice questo è l'occhio. Da oggi è finito il modulare. Quando si affezionano così poi alla stessa persona diventano gelosi ed è un casino, capito? È un casino. Gianni! Tutto! Oggi non c'è un amico, c'è uscendo, a scuola. C'è uscendo? Ma amico, così mi dico, vabbè, la cosa a scuola così mi fa la mano. Lo conosce la Caterina, non so se la conosci, mentre era anche più grande, ma è bravo. Ha ancora i due capelli, tutto a bordo. Cazzo, basta, lo guarda, ti mangia, il braccio. Ma la conosco, non è fatta vedere, quella battaglia che c'ero io e tu, ti ricordi? Ehi, quella lì, fuori. Quella lì, ma è tornata un altro giorno. E che te l'hai seduta lì dove l'hai seduta l'altra volta col cane? Non viene nota, ma si è sicuro che bisogna essere. È entrato con i capelli a botte, che la mamma si dice vicino a Caterina. E spazio il bruciare in Caterina di mani a guardia. Che sta succedendo? Scusi, guarda, è allucinante. Si è stato tolto, è stato qua da tutto quanto il giorno quando io, per dire, non mi faccio fare la mattina. Ha fatto la foto, si stanno usando. Se io passo, per dire, fuori o vicino all'ingresso del portone e sento le chiavi, esce fuori, si mette a bagliare. Sento il portone da un chilometro, quello mi riconosce le chiavi, solo il portone, quando io apro il portone di casa. Dico, io sono andato al primo piano, lui al primo piano. Io quando apro la porta, con la chiave lui riconosce che sono io. Allora, immagino, hanno questo intuito particolare, soprattutto perché stanno a contatto sempre con la stessa persona, capite? E poi un bel antifurto anche per più capo che per mamma. E quindi sapevo qui veniva un bel onfio. Questo periodo stanno aprendo un bel mio con vicino, anche appartamenti, quindi c'è un antifurto automatico qua, capito? dentro casa, dentro la camera, nel frattempo fatti fuori. Se tu lo chiedi alla materazzino, gli faccio il braccio, gli faccio. Sono purtroppo molto attenti, credi. Qui è pieno americani, di qua c'erano noi, c'era il palazzo a fianco, dove c'è perciò, come ci ha detto, ce ne sono, mi sembra 4-5, tutto pieno è qua vicino di cani alla prima terra, cani alla guardia, tutti ce l'hanno qua, non c'è un cane che non ci sono l'appartamento, ecco perché noi abbiamo visitato un mondo di appartamenti, meno male. Dammi 10 minuti ancora, devo subito. D'accordo, ok. Gianni, ci sei scocciato? Ti sei addormentato, vai. Come minimo. Lo sveglia, Pippi. Oh, ma quel chiamato dice, ma che 5 minuti? Che devo fare una cosa, sta arrivando. Domani vado a fusarmi con il procinatore, quello per il tantale. Guarda come si sveglia, con le cuffie. Dice, non sto sognando, sento qualche cosa di strano. E io dico, domani con il procinatore, sai come fa l'oscillatore, mamma mia. Incomincia la frequenza più bassa, quella più alta. A voi si sente, dice, se fosse qualche tantale mi sta rompendo le balle. Non è neanche giusto sicuramente, ma io non sono mattina, tutta la mattina, l'avevo sentito io. Sempre a volte, sempre i sovramotorelli, sempre i grandi cazzo camionisti che avevano le tasse, c'erano tutti con gli uomini. Questo lo poco fa, dice, sto prendendo su 500 watt, dice, sta prendendo il... La 48 del posto, no, io non lo stavo nel voto. Ah, guarda, che sono qua, sono un bel certo. Aiuta, per carità, per... Dopo gli dico, faccia che vai qua, 43, che ti vuole... Ti vuole già le... Che se vuole comprare tutto a 200 euro, dico. A 200 euro comprate tutto, ne hai 500 watt, dopo 2001 con la tassista mi sembra che c'è, e la 48 col cesso. Non è mai niente di Gianni. Gianni! Sì, Gianni, saluta, se ne è fatto tutto contaminato. Sì, buon anno a Gianni allora. Ci sentiamo domani. Ciucuccio. Già ti ha caricato là? Ti ha caricato là? Sì, me ne sono accorto, lo sto sentendo. E sono quattro. Perché io non lo conosco, sicuramente non la persona come si parla spesso, però deve capire che io ce l'ho qua, il mio collega vuole il suo, meglio il suo, ma lo uso in ore e non rompe con più nessuno. Non puoi usare carta di bici in mezzo alle notte, le mie cuffie. Ma poi grida talmente tanto che alla fine è carta uno scassamento di coglioni. Io lo so già, lo sentivo io. Non la sentivo più forte anche che a me. Ma arrivano per più 10, attenzione, quando mette tutta la manetta arrivano 9 più 10. È una cosa impressionante. E altro la parola, arriva forte. Io tengo sempre potente molto bassa, poi se lo calo, ma mi sente lo stesso, cazzo. Mi sente anche col baracchino a 4 watt, è lì il problema. E me sono accorto. E mi dispiace però perché tu lo fai. Ma noi ormai siamo sempre sui canali alti e finalmente riusciamo a parlare un po' tutti, perché sui canali bassi c'è sempre qualche imbecille rutta che fa, le mette la portante, non dà la possibilità agli altri di parlare solo perché sono vicini, quindi abbiamo deciso di spostarci nei canali alti, non è una futibilità, io lo seguo e va bene così. Anzi, sto parlando meglio più adesso che quando stai nei canali bassi, quindi abbiamo deciso così, noi oramai spaziamo dal 41 al 50, al 55, 45, 48, rimaniamo sempre così in alto, perché almeno se c'è qualcuno che ha 40 canali non te lo fa le palle, capito? Tutto lì, noi, le portate ci sono sempre, quindi sempre ci saranno, però questo periodo va bene così, va bene così. Stiamo andando tranquillamente, dove c'è sempre gente, qua ne chiamano altri, quindi continuiamo così, poi si vedrà, si vedrà. E Gianni, svegliateci, Gianni qui. Dove Catalesi? Ha salutato, è andato in corretti. Ho salutato, non ho corrisposto. Perdonami Gianni, stavo ascoltando in questo recuato e non ti ho seguito, non ti ho sentito. Buonanotte, se mi vuoi, ci aggiorniamo domani. In coma non fa sentire via anche se è brutto come più o meno di notte, ieri che ti ho fatto dalle 10 la mattina fino alle 7 di sera, sono a casa, erano le 8 passate. Ho fatto la voce, sono fatto un'oretta in radio, sono andato in coma pure io, prima di Gianni casi. Sono distrutto, ho dormito tutta la notte, sono arrivato stamattina alle 7, faccio il soprassalto subito, mi sono lavato, preparato e sono andato a ospedale a fare la fisioterapia. E poi niente, poi sono passato l'amico, c'era Giuseppe. E niente, e vabbè. Adesso ormai alle 31 e ancora abbiamo sino a 6, in fisioterapia, poi 7. C'è la visita di controllo finale. Sicuramente l'8-9 non è rientro al lavoro. Così do la possibilità agli altri anche un po' di staccare la spina, perché cazzo si offende un culo allucinante, soprattutto quello che sta sostituendo a me. Non devo capire, è incasinato, beh, non mi arrivi il telefono di Cerges, non mi arrivi. Guarda, se ti avessi pigliato un bel 180, 140, e ci ha trovato così con un bel leone. Sei stato un bombo, ma con quel letto, mamma mia. Ti fa venire mal di testa la notte sentirti, Genna. Quando ascolto i segnali a me, Borova. Vedi che ti ascolto bene lo stesso. Quanto te rimo a Borova te io? Allora, se dopo 5, 250 watt. Uiaia, già va bene. Quell'apparecchio non va bene a gennaio. Se tu ti cambi l'apparecchio, ti prendi un bel 80 da Kenwood, è stato 13. La verità, quello è un baracchino, no? Ci vuole un bel apparecchio, con 300 euro ti diverti, capito? Non è avere un baracchino da camionista. Questo è tutta un'altra cosa. E meno ti fai. La verità, volevo ti dica io. Come vedo, la 500 è una Ferrari. No, io la sto vendendo, però Claudio c'è qualcuno che lo trova di questi apparecchi qua. La verità, perché te lo trova, è tutta un'altra cosa. Ti diverti almeno, vai in mano laterale, vai in AM, in FM, ti fai di ex con tutte le... Non è come avere un barchino come quello lì, quello non piace, a me non piace la verità. Io sono abituato a apparecchiatura professionale, non un apparecchio così di da camionista, la verità. Poi non lo so. Ma questo è un bel 80, 140, quello che è, 300 euro. 350, sono sicuro che 400 euro sono contro, ma almeno è tutta un'altra cosa, una nuova piazza. Sì, è come avere una 500 a Ferrari. Sì, vabbè, c'è una questione di quello che è modificato, c'è con la trovata di potenza, c'è AM, vanno laterali. Ecco l'eco che rompe i cusi, mi mandano a sé. Il discorso è quello, se tu lo ti con l'eco, la gente, siccome ci tocca forte, la silly, quando ti sento non entra più, il discorso è quello lì. Se tu cambi l'apparecchio, ti prendi un bel Kenwood, 180, 140, 430, 440, quello che vuoi tu, e vai dal 27 fino ai 120 canali, quello che è, in banda laterale, la NFM, ti inventi, fa di ex, come faccio io ce l'ho più di 20 anni questo apparecchio qua, però ne vale la pena aver speso la cifra del genere, è tutta un'altra cosa, capito? Non è come avere un baracchino, è molto molto diversa la cosa. Sento bene, è quell'eco che dà problemi, quando ti si non puoi uscire con l'eco, ti sentiamo in cuffia noi, capito? Quindi talmente forte che l'eco in cuffie ti assorbe, ti fa la testa a cacco, il discorso è quello. Io ho pagato 500 euro, esatto. Diceva Claudio, sono quelli anche a lui, Ma con 500 euro ci usciva un 80, l'aveva il fattore e anche la comunione esterna ci usciva. E forse ti l'avevo telegrafo, anche la moto va 5. Ce ne sono di buoni affari, ce ne sono, ci sono stazioni base a 250 euro che c'hanno 80 canali, con un bel microfono da tavolo, io ne ho tanti di quelli, con un bel microfono da tavolo non assilli, cioè non fai sordo la gente, cioè, no, magari è per quello che ti dicono cosa, non lo so, io non so cosa ti è successo perché vuoi smettere di modulare. Se non hai più voglia o che cosa, ma io ti consiglio magari di fare un cambio con altre cose. Sto usando un 140 della Kenwood adesso. E io ho apparati base molto belli, grandi, di buona dimensione, però sono tutti da collezione, hai capito? fare cambio con qualche altra radio che non crei problemi a nessuno e che ti soddisfi, io te la posso anche procurare, non ci sono problemi. E ci sentiamo al telefono, Gennaro, dai. C'ho qualcosa, bisogna vedere cosa si può fare. Per farti, appunto, per essere alla pari, bisogna vedere cosa si può fare. Ci sentiamo al telefono, Gennaro, va bene? No. opportunità, poi sono riesco a lineare in mano. Al massimo sono. Guarda. Eccolo qua. Attaccato e liscio. Vado via perché domani va a lavoro, capito? Cappa. E va bene, va. Va bene. Ti lascio, dai, che stanno in quelli che voleva la nonna. Ricordati quello che ti ho detto, buscati un bel apparecchio per casa e fregatene. Quella apparecchio che usando lo usa in macchina, che è meno fastidioso. E tu vedrai che ti diverti, è tutta un'altra cosa. Comprati un bel 680, un 140, un 430, un 440, quello che è. Su internet ce ne sono tanti di questi apparecchi. E uno ti diverti, è tutta un'altra cosa. È come usare da 500 un Ferrari. Per 350, 400, lì sono i prezzi. La patente? E vabbè, la patente io non ce l'ho, comunque non sono spesso. Non fa nulla, tutti i bimbi. No, con la stessa cosa siamo in centro, no, sta tranquillo. Niente ci avvisi. Non ti preoccupare. Se vuoi comprare usi 27 in 25 per dire in laterale, però ti metto il posto, basta che ascolti e ti diverti. Quei carabinieri, polizia, quali apparati usano? Per altra cosa sono quelli, quella è un'altra frequenza, molto molto più alta delle, di dove c'era adesso. Non lo so che frequenza sia, ma è molto molto più alta di questa qua, ma è molto molto più alta, se voi proprio sentiti, no? Penso che lo faccio le 30, loro usano quelle frequenze 4 e 30, no? Noi siamo sì. Ma diciamo, forse sembra l'antenna 120 alla 27, o devi cambiare anche l'antenna? No, devi cambiare anche l'antenna. Hai capito? Ma ci vuole il patentino, io ho la licenza come radioamatore, come lo dici tu? Della 27. No, quella è la città come CB, no, come radioamatore, è un'altra cosa quella. Per la cosa di fare l'esame di elettronica è tutta un'altra cosa, non ti preoccupare. Va bene, Genna, ci stiamo domani. Ho avuto il mattino di sera, come vuoi tu? E già allora devo fare la cuccia adesso a quest'ora. Ci si trova domani, salì bene, ricordi quello che ti ho detto, con l'apparecchio buttacelo, o se no dai qualcuno, te lo vendi 500 euro quello che vuoi, camionista, e ti piglio un altro bel apparecchio meglio di quello lì, come se lo sto usando io, come se lo manca la gente, è molto meglio ascoltarti e sei tranquillo. L'ecco di notte, direi di giorno che è assillante, non va bene, capito? Questo non mi sento un po' forte, questo è lo che l'ecco, quando non manda l'ecco, ti fa la testa a cacco e nessuno ti ascolta, capisci? Nessuno ti fa ascoltare, quindi se tu ti prendi, se tu non vai l'apparecchio per serio, come si deve, che esci normale, da casa va benissimo, poi in macchina anche per fatto va quello, nessuno ti dice niente. Io non ne uso l'apparecchio con l'ecco, già mi hai sentito parecchie volte, non mi piace a me l'ecco. Così che ti fa la testa a cacco, capito? Ok, allora ci sentiamo domani, dai! D'accordo, ci sentiamo domani, ciao, fammi bene, buon colettivo, buon tutto, anche buon colettivo, a me no, a te. Ma proseguimento di cosa, a te non c'è problema, fatti un spatolato, guarda se c'è qualcuno al limite sui canali normali, ti faccio compagnia da... Il centro Salvador va benissimo, sono contento. Sono domani.